Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quinta e ultima favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Petula. La signora commise a Lauretta che dicesse, ed ella, immantinente alla sua favola, diede incominciamento così dicendo: Favola quinta. Di due medici, di quali uno era di gran fama e molto ricco, ma con poca dottrina. L'altro veramente era dotto, ma molto povero. Oggidì, amorevoli donne, più sonorano i favori, la nobiltà e le ricchezze che la scienza, la quale, quantunque sia in persone di basso e umil grado sepolta, ella non di meno da se stessa pur riluce e splende come un raggio. Il che fiavi manifesto se alla mia breve favola l'orecchio presterete. Fu già nella città Antenorea un medico molto onorato e ben accomodato di ricchezze, ma poco disciplinato nella medicina, il quale aveva per compagno nella cura d'un gentiluomo di primi della città un altro medico che per dottrina e pratica era eccellente ma privo di beni della fortuna. Un dì, venuti a visitar l'infermo, quel gran medico riccamente vestito, toccatogli il polso, disse che egli aveva una febbre molto violenta e formicolare. Il medico povero, bellamente guardando sotto il letto, vide per avventura alcune cortecce di pomi e pensossi ragionevolmente che l'infermo avesse mangiato dei pomi la sera precedente. Poiché egli ebbe toccato il polso, dissegli: «Fratel mio, veggio che ieri sera tu hai mangiato di pomi, perché hai una gran febbre». Non potendo l'ammalato negar quel che era la verità, gli disse di sì. Furono ordinati gli opportuni rimedi e partironsi i medici. E così, andando insieme, quel famoso e onorato medico, gonfiato il petto d'invidia, pregò molto questo medico di bassa fortuna suo collega che gli volesse manifestare segni per i quali aveva conosciuto l'infermo aver mangiato dei pomi, promettendo dargli un buon pagamento per la sua mercede. Il medico di umil stato, veggendo l'ignoranza di costui, a ciò che se ne vergognasse, l'ammaestrò in questo modo: «Quando ti avverrà d'andare alla cura d'alcun infermo, al primo ingresso abbi sempre l'occhio sotto il suo letto, e quello che vi vedrai da mangiare sappi certo che l'infermo ne ha mangiato. Questo è un notabile esperimento del gran commentatore». E ricevuti alcuni danari, da lui si partì. La mattina sequente, questo magnato ed eccellente medico, chiamato alla cura d'un certo contadino, ma però ben accomodato e ricco, entrando nella camera vide sotto il letto la pelle d'un asino, e poi che ebbe cerco e investigato il polso dell'infermo, trovatolo da inordinata febbre aggravato, gli disse: «Io conosco, fratel mio, che iersera hai fatto un gran disordine e che hai mangiato l'asino, e per questa causa quasi sei incorso all'ultimo termine della vita tua». Il contadino, udite così pazze ed esorbitanti parole, sorridendo gli rispose: «Perdoni, mi prego, vostra eccellenza, signor mio, sono già 10 dì ch'altro asino, che te solo non ho visto io né mangiato». E con queste parole licenziò il così prudente e scienziato filosofo e trovossi un altro medico più perito di lui. E così appare, sì come dissi nel principio del mio ragionamento, che più sono onorate le ricchezze che la scienza. E se io sono stato più breve di quello che conveniva, mi perdonerete, perciò che io vedeva l'ora esser tarda e voi col capo affermar ogni cosa esser vera. Fine della storia. Messo che ebbe fine Lauretta alla sua brevissima favola, la signora, che quasi dormiva, comandò che con un elegante ed onesto enimma ponesse termine al favoleggiare della presente notte, perciò che il gallo col suo canto ormai dinunciava il futuro di. Ed ella, senza fai altra scusazione, così disse: «Rossetta bella d'ogni laude degna, onor del cielo e del mondo corona, quando tu spieghi la candida insegna, che ad alto lieva ogni gentil persona, del largo tuo voler l'uomo s'impregna, e ad a ben operar l'anima sprona, ma quando scopri l'altra oscura e nera, convien ch'a forza ogni gran stato opera». Il nostro enimma altro non denota che la buona e la cattiva lingua, la quale è rossa e onor del cielo, perciò che con quella lodiamo e ringraziamo Iddio di benefici da Lui a noi concessi, ed è parimenti corona e gloria del mondo, quando quella l'uomo adopra in bene. Ma quando l'opera in contrario, non è sì potente stato che ella non atterri e ponghi al basso, e di questo io potrei addurre infiniti esempi, ma la cortezza del tempo e gli animi lassi non patiscano maggior lunghezza. E fatta la debita riverenza, si pose a sedere. Finito l'enimma, e da tutti non poco comendato, comandò la signora che i torchi s'accendessero e tutti andassero alle lor case, imponendogli strettissimamente che tutti la sera seguente, ben preparati, all'usato luoco, ritornassino. E così tutti unitamente promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola dell'ottava notte. Fine dell'ottava notte.